tu è disposto, l'ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente, ed essa non è alcuno. Buia la notte. Ed io comincio mai a far il scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, ei godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Ma Susanna, Susanna, quanta pena mi costi, con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria? Ma che il fidarsi a donna, è ogni or follia.